Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parliamo di Germania. Lo sapete qual è una delle principali ragioni per cui la Germania è l'economia principale d'Europa, nonché il leader nella manifattura e nell'industria? Non leader solo perché è la principale manifattura d'Europa, ma leader soprattutto perché sono le fabbriche che guadagnano di più e dove gli operai guadagnano di più. Ecco, la ragione principale è che ci sono enormi investimenti di ricerca e sviluppo che sono sia dei privati che fanno veramente la loro parte investendo un sacco di soldi nella ricerca e nello sviluppo, ma anche del settore pubblico. Anzi, esiste tutta un'infrastruttura di ricerca che il settore pubblico mette a disposizione delle imprese tedesche ed è un'infrastruttura di ricerca potentissima che è composta dal Max Planck Institute che fa la ricerca di base, ma anche dalle Fraunhofer che fanno la ricerca applicativa. C'è una rete di quasi un centinaio di Fraunhofer in Germania che accompagnano le imprese tedesche nei percorsi di ricerca applicativa. Cioè, un'impresa tedesca vuol fare un nuovo prodotto, ha la necessità di trasformare un'esigenza in un prodotto applicando una tecnologia, si rivolge alle Fraunhofer con le quali fa un contratto di ricerca, gli affida la commessa e viene fuori il nuovo prodotto che poi diventa competitivo. Le Fraunhofer sono un istituto pubblico. Le Fraunhofer sono spessissimo nel nostro dibattito portate ad esempio di quello che servirebbe in Italia. Si dice ovunque, l'ha scritto varie volte anche il Sole 24 Ore, in particolare il professor Alberto Quadrio Curzio, ci vorrebbero le Fraunhofer. Bene, oggi abbiamo qui ospite una persona che si occupa delle Fraunhofer, che si chiama Christian Mazzocco. Buongiorno. Buongiorno. Lui è tedesco, però ha spesso a che fare con l'Italia. Ci spiega sia il funzionamento delle Fraunhofer e sia la materia specifica di cui si occupa la sua Fraunhofer, che è specializzata nella logistica e nel magazzino, dove stanno sviluppando dei progetti super avveniristici, per esempio i droni che sorvegliano tutti i magazzini continuamente e altre cose affascinanti che fra poco vi diremo. Dottor Mazzocco, io non sono tedesco. Bene. Quindi lei invece parla l'italiano benissimo, anche perché lei è spesso in Italia perché voi avete clienti italiani. Il fatto è che c'è tanto bisogno di ricerca precompetitiva che, siccome in Italia non ci sono le Fraunhofer, gli italiani vanno in Germania a cercare la collaborazione delle Fraunhofer, giusto? Diciamo, io sono in Italia per questo motivo dall'anno 2003, vuol dire sono quasi 14 anni adesso. Non è che le aziende italiane vengano in Germania per cercare il nostro aiuto, siamo più noi a proporci all'estero. Penso che sia anche la nostra missione, non solo lavorare in Germania, ma oggi parliamo di Europa, così dobbiamo lavorare in tutta l'Europa. Ecco, io non sono tedesco, quindi la Fraunhofer dove lavora lei, come si chiama? Io lavoro a Dortmund, abbastanza riconosciuta come città. Il nostro istituto si occupa di logistica. E si chiama? Istituto per flusso di materiale e logistica. Me l'ha tradotto in italiano, invece sì. In tedesco è? Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik. Ecco, così suona molto meglio. E ci può raccontare il tipo di lavoro che voi svolgete? La nostra missione è sempre quella di trovare aziende. Cerchiamo sempre di capire le esigenze delle aziende italiane, di entrare proprio nel dettaglio e di sviluppare soluzioni per i nostri clienti. Questo possono essere sistemi logistici, come una consulenza per lo sviluppo dell'azienda, come sistemi per il trasporto. La logistica è talmente ampia come argomento che abbiamo... Però voi siete sempre nell'ambito precompetitivo, perché l'ambito della ricerca di base lo fanno i Max Planck. Sì, noi siamo nella fase precompetitiva. Per esempio, per lo sviluppo di sistemi logistici, il nostro obiettivo è quello di sviluppare un prototipo e di brevettarlo. Così noi diamo un brevetto al nostro cliente per un prodotto nuovo, innovativo. E questa è la forma di collaborazione. Per capire come funzionano le Fraunhofer, una breve scheda. La rete degli istituti Fraunhofer è uno dei pilastri della politica industriale tedesca, alla quale si deve tanta parte del successo economico della Germania. La rete dei Fraunhofer è attiva nella ricerca applicata o precompetitiva. si propone di facilitare un rapido utilizzo delle scoperte tecnico-scientifiche, in particolare ma non solo quelle fatte dagli istituti pubblici Max Planck, in ambito aziendale. Con un budget di circa 2 miliardi di euro all'anno, cofinanziato dalle imprese e dallo Stato, il Fraunhofer nutre i suoi 67 istituti, ciascuno dei quali specializzato in un ambito specifico dalla logistica alla biologia, e le unità di ricerca attive a livello locale, ognuna nell'ambito di specifici cluster. Oggi la rete dei Fraunhofer ha circa 23.000 dipendenti, quasi tutti scienziati e ingegneri, attivi in istituti e centri di ricerca che godono di larga autonomia, anche se legati in un unico network. Il sostegno economico da parte dello Stato è direttamente proporzionale ai contributi ricevuti dalle imprese. Per ogni euro ricevuto dalle aziende, lo Stato aggiunge altri 2 euro. Se non ci sono contributi da parte dei privati, dallo Stato non arriva niente. In questo modo si evitano rendite di posizione e si costringono i Fraunhofer a cercare continuamente accordi con le aziende, rispetto alle quali devono essere in una posizione di servizio. Gli accordi fra Fraunhofer ed imprese sono nella forma di contratti di servizio finalizzati alla risoluzione di uno specifico problema. In pratica, un dispositivo micidiale a cui le imprese possono attingere per alimentare l'innovazione. Oppure una poderosa macchina di problem solving che ha consentito alle imprese tedesche non solo di reggere la concorrenza della Cina, ma di sfruttare a proprio vantaggio la sua crescita impetuosa. La disponibilità di innovazione ha facilitato la ristrutturazione e riposizionamento delle imprese tedesche, rispondendo con superiori tecnologie alla concorrenza della Cina e di altri competitor internazionali. La rete dei Fraunhofer gestisce ogni anno circa 8.000 contratti attraverso i quali vengono veicolate verso il mercato le idee e le tecnologie sviluppate al suo interno. Alternativamente, sono gli stessi scienziati del Fraunhofer che portano direttamente sul mercato nuove idee attraverso spin-off o nuove imprese create con il coinvolgimento di un venture capitalist. Un apposito dipartimento si occupa di incentivare gli scienziati a mettersi in proprio, elaborando anche strategie di marketing delle nuove tecnologie che vengono create. Per capire bene, dopo la scheda, come funzionano le Fraunhofer, c'è un bell'articolo che ha fatto qualche tempo fa Luigi Guiso sul Sole 24 Ore, raccontando il caso della Salus, un'azienda produttrice di tisane e bevande ricavate dal tè oltre che tè. Fino a quel momento la Salus aveva risolto manualmente il tema della separazione delle foglie di tè da altri elementi estranei. Ma la separazione manuale delle foglie di tè richiedeva un sacco di tempo e faceva diminuire l'efficienza aziendale. C'era bisogno di risolvere il problema con delle macchine che fossero efficienti. Si è rivolta a una Fraunhofer e ha sviluppato queste macchine che ha portato in azienda, permettendo così di mantenere i suoi impianti a Bruchul, che altrimenti sarebbero stati chiusi per inefficienza. E questo è il meccanismo. L'azienda si rivolge alla Fraunhofer che gli risolve il problema tecnologico, giusto? Sì, è proprio questo che stiamo facendo. Ecco, nel campo della logistica poi voi fate anche della ricerca di laboratorio sulle nuove frontiere della logistica. Sì, magari bisognerebbe spiegare un attimo il modello Fraunhofer, perché la Fraunhofer si finanzia al 70% di ricerche per aziende. E a 30% dei fondi pubblici, sì, dello Stato piuttosto della regione. Questi 30% servono per vedere un po' il futuro, perché io non posso offrire una ricerca a un mio cliente se non conosco il domani. Così non è, per noi non è sufficiente vedere l'oggi, ma dobbiamo sapere com'è la logistica fra 10-15 anni. Per fare queste ricerche interne ci sono questi fondi pubblici. Uno di questi temi, per esempio, è quello che diceva lei, dei droni che fanno l'inventario continuo. Questo non è una ricerca che facciamo. No, me lo spieghi come sono i droni che fanno l'inventario continuo? Oggi sono già dappertutto, vuol dire hanno il telecomando, viaggiano, è un giocattolo in sostanza. Sì. I nostri sono autonomi, vuol dire devono essere in grado di viaggiare in completa autonomia all'interno di un magazzino, all'interno di una fabbrica, anche all'aperto. Loro seguono percorsi che definiscono loro, e leggono codice a barre di articoli e contano i pezzi sul pallet. Fanno un inventario come lo facciamo o come fanno le aziende. E questa è una tecnologia avveniristica che non c'è ancora. Non c'è ancora perché non c'è l'autonomia, c'è anche il discorso della sicurezza perché lo facciamo durante l'orario di lavoro e quindi c'è il rischio che il drone vada a sbattere contro un operaio e gli faccia male. Così sono tanti aspetti, anche quella completa autonomia dei droni, questo oggi dal mio avviso non esiste. In più devono essere sistemi che quando portiamo i droni all'interno del magazzino non dovrebbe essere nessun tipo di implementazione o installazione. Vuol dire le interfacce devono essere fatte in modo che sono subito attivi. Li lasciamo lì e sono attivi. Vanno anche a caricare la batteria in completa autonomia. Non mi devo più occupare dei miei droni, fanno il lavoro e finito lì. Quindi questo è un progetto di sviluppo che voi fate pensando al futuro. Per cui non è che le Fraunhofer fanno solo la ricerca su commessa, ma si mostrano già equipaggiate di un bagaglio di soluzioni che poi possono venire richieste successivamente. Sì, ma sicuramente l'obiettivo sarebbe quello di brevettare questa tecnologia, come dicevo prima, e offrirlo a un'azienda che si occupa o che si vorrebbe occupare di questa tecnologia. Così noi non siamo venditori di nulla, così l'obiettivo è sempre dopo di farlo diventare un sistema operativo. Ok, ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Christian Mazzocco, che ha un nome italiano e parla italiano, ma è un signore tedesco, che rappresenta una delle più importanti Fraunhofer dedicate alla logistica e al magazzino, e ci sta raccontando come funziona il sistema delle Fraunhofer tedesche, cioè di questi centri di ricerca che aiutano le imprese, dicendo anche che c'è un tale bisogno di questa ricerca precompetitiva che fanno le Fraunhofer, che sono un'eccellenza del sistema tedesco, che tante volte sono gli italiani che si rivolgono alle Fraunhofer tedesche. Ma che cosa state sviluppando con clienti italiani? In Italia si tratta di solito di progetti di ristrutturazione oppure progetti di consulenza per lo sviluppo dell'azienda o di sviluppo di impianti completamente nuovi che sono per la maggior parte molto complessi. Così le aziende magari che non hanno le capacità interne per fare questi sviluppi ci chiedono di aiutarli e di portare avanti questo tipo di progetto. Ma il tema è che ci stiamo avviando progressivamente verso quella che viene definita fabbrica 4.0, che poi peraltro è un'invenzione tedesca, la quale è una fabbrica completamente digitalizzata con la costruzione dei pezzi e degli apparecchi solo su commessa. E siccome c'è un sensore su ogni componente, i componenti dovrebbero arrivare in just in time e il magazzino e le scorte si dovrebbero ridurre al minimo o addirittura manco esserci più, perché ci dovrebbe essere un flusso continuo reso possibile dalla digitalizzazione. Tutto questo per la logistica dovrebbe essere una rivoluzione. Tutto questo per la logistica è una rivoluzione, ma la domanda per ogni progetto è quello di capire le esigenze dell'azienda, perché non è che ogni azienda oggi sarebbe in grado di fare questo passaggio. No, mi dicono che ci vogliono 10 anni. Sì, ma dobbiamo capire dove siamo e dove vogliamo arrivare e sviluppare assieme col cliente il percorso per arrivare in una maniera sicura, perché sicuramente sono investimenti da fare ogni tanto e le aziende hanno bisogno di sicurezza su questo. Ma in Germania a che punto sono con la realizzazione di questo? Ma sono aziende molto spinte, di medie dimensioni, che hanno già realizzato una bella parte. Sono fornitori che forniscono questi sistemi, tra l'altro anche le nostre, ma sono comunque anche aziende che lavorano in modo artigianale come dappertutto. Ecco, una delle cose che sono affascinanti della logistica portata all'estremo è che dentro i magazzini di maggiori dimensione ci sono già le auto che si guidano da sole. Cioè, noi adesso parliamo di Google Car, di auto senza pilota, ma all'interno dei magazzini più rilevanti e più avanzati tecnologicamente l'auto senza pilota esiste già, no? Diciamo sistemi che viaggiano senza pilota all'interno di un capannone li abbiamo realizzati per la prima volta nell'anno 2000 per l'Expo. Non era un contesto completamente logistico, ma comunque i sistemi c'erano già. Oggi abbiamo sistemi che viaggiano in autonomia, senza percorsi predefiniti, vengono chiamati dal magazzino. In sostanza funziona così, che una macchina chiama dicendo che manca il materiale, chiama il magazzino per richiedere il materiale, dopo il magazzino dice che il materiale ci sia e chiama il mezzo. Il mezzo in autonomia va al magazzino, può salire anche al terzo piano, si prende il contenitore e va subito in macchina per consegnare il materiale, senza che uno in mezzo lo gestisce o interviene. Ma per la sicurezza, se per caso passa una persona che si trova sulla strada dell'auto senza pilota che si muove dentro il magazzino, cosa succede? Sono fatto in modo che si bloccano. Che si bloccano, si fermano o si prendono una deviazione. Se uno lascia qualcosa in mezzo alla strada, trovano anche un percorso alternativo. Sono abbastanza intelligenti sotto questo punto di vista. E non si parla di un mezzo, abbiamo un capannone dove facciamo le ricerche, il nostro laboratorio, dove abbiamo una cinquantina di mezzi che collaborano, che comunicano tra di loro, che portano materiale da A a B alla fine. Per capire tutto l'impianto delle Fraunhofer e quindi anche capire perché i tedeschi riescono ad avvantaggiarsi di questa metodologia di supporto alla ricerca e quindi di supporto a fare progetti che sono più competitivi, ci vuole una breve scheda sulla politica industriale tedesca. La Germania è l'economia europea più grande, forte e con la maggiore crescita. Il PIL tedesco, pari a poco più di 3.000 miliardi di euro nel 2015, vale da solo il 29% di quello dell'Eurozona. Negli anni recenti la crescita economica tedesca è stata spettacolare e sostanzialmente senza pause. La Germania è anche il primo paese manifatturiero europeo e uno dei primi al mondo. Una delle ragioni di questo successo economico è la politica industriale perseguita negli anni e da tutti i governi di ogni colore politico, dallo Stato e dai Länder tedeschi. Tanto per fare un esempio, l'Industry 4.0, che si dovrebbe chiamare più correttamente Industrie 4.0, è un'invenzione della politica industriale tedesca. Industrie 4.0 è il frutto dell'High-Tech Strategy for Germany, un documento elaborato congiuntamente dal governo federale, dai Länder, dalle università e da rappresentanti delle imprese, con Robert Bosch e Siemens in prima linea. Lo Stato, insomma, ha un ruolo chiave nello sviluppo dell'economia tedesca. La politica industriale viene perseguita attraverso strumenti legislativi e regolamentari, ma anche da istituzioni pubbliche che offrono alle imprese vantaggi competitivi tali da fare la differenza rispetto alla concorrenza internazionale. I vantaggi sono a livello politico-organizzativo, attraverso il coordinamento e finanziamento dei cluster regionali specializzati, finanziario, di ricerca scientifica generale e di ricerca precompetitiva. Tutto questo avviene senza turbare la libera concorrenza e con sussidi diretti alle imprese ridotti al minimo possibile. Il concetto infatti è di accompagnamento e non di dirigismo. E l'accompagnamento avviene soprattutto attraverso una rete di istituzioni che supportano le attività di ricerca e sviluppo utili alle aziende. Questo concetto e i relativi strumenti sono stati poi imitati dall'amministrazione di Barack Obama, che ha condotto una politica industriale dichiaratamente ispirata da quella tedesca. La visione strategica della politica industriale tedesca è chiara. La Germania deve sempre essere la potenza economica e industriale di riferimento dell'Europa, con una particolare focalizzazione in settori come automotive, meccanica, elettronica, chimica e, recentemente, macchinari per le energie rinnovabili. Dottor Mazzocco, ma voi che cosa fate in Italia? E perché le aziende italiane devono venire da voi quando in Italia è pieno di società di consulenza oppure di università che sul fronte della logistica hanno rapporti di collaborazione con le aziende? Che bisogno c'è di scomodarsi fino a Dortmund? Questa è una bella domanda, perché chiaramente conosco le nostre metodologie, il nostro modo di lavorare, non conosco precisamente quello italiano. Quello italiano, ma comunque dal mio avviso è un attimo anche la nostra metodologia, perché noi lavoriamo sempre con un metodo che abbiamo chiaramente elaborato al nostro interno, è uno sviluppo nostro che porta una serie di vantaggi. Noi focalizziamo molto sul lavoro in team con il cliente, vuol dire la nostra lingua non è per caso l'italiano, perché abbiamo un team di consulenti, di ricercatori che lavorano in Italia, che parlano chiaramente anche l'italiano. Ma che parlano inglese e tedesco? Che parlano italiano, inglese e tedesco, almeno tre lingue, sì. Ecco, per capire meglio com'è il sistema tedesco, ecco allora una breve scheda invece sui Max Planck Institute, che sono un'altra importantissima istituzione al servizio delle imprese. Molti vantaggi competitivi delle aziende tedesche sono merito delle ricerche svolte all'interno degli istituti Max Planck, finanziati dallo Stato. La società Max Planck è un ente pubblico di ricerca scientifica e tecnologica, partecipato dal governo federale e dai Länder. È considerato un'eccellenza mondiale. Ben 33 premi Nobel, fra i quali Albert Einstein, hanno lavorato al suo interno. La società Max Planck è articolata in 83 istituti di ricerca sparsi per il territorio, che danno lavoro a 17.000 dipendenti, 5.500 dei quali sono scienziati a tempo pieno. Il budget è di circa 1,6 miliardi di euro all'anno. Gli istituti Max Planck, pur collaborando strettamente con le università, lavorano autonomamente e tendono a focalizzarsi sulla ricerca innovativa che, a causa del proprio carattere interdisciplinare o della necessità di particolari risorse, non può essere affrontata dalle università statali. L'organizzazione interna degli istituti Max Planck è articolata in dipartimenti di ricerca con a capo direttori diversi. La società Max Planck è dal punto di vista legale un'organizzazione simile a un'associazione e ogni direttore in qualità di membro scientifico ha uguale diritto di voto. Eccoci in linea dopo la scheda. Comunque la mia impressione, dopo aver visitato tante aziende meccaniche, che sono i clienti tipici, è che gli italiani si rivolgano alla Fraunhofer tedesca perché in realtà c'è un grande bisogno di questa ricerca precompetitiva che in Italia non viene attivata perché si fa o consulenza oppure altri tipi di ricerca, e si va in Germania perché in Italia non c'è. Che ne dice lei, dottor Mazzocco? Sì, ma è chiaro, se lavorano con noi hanno bisogno di una soluzione innovativa che sul mercato non si trova, ma che deve essere una soluzione applicabile. Applicabile, questa è la parola chiave. Sì. Va bene, il tempo è tiranno, la ringrazio e arrivederci agli ascoltatori a domani ore 13:15. Grazie a lei, arrivederci.